Rostagno, l'uccisione di Rostagno, un giornalista. Questo delitto lei lo paragonerebbe più a quello impastato o a quello Pecorelli? È un po' più impastato perché comunque rappresenta una ribellione in terra di mafia. C'è un pizzico di Pecorelli perché la mafia può essere stata strumento anche di altri interessi. Il delitto Rostagno, un mistero, ora un processo. Storiacce, sabato alle 13:15 col procuratore Antonino Ingroia. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto su Radio 24.